Voci dal Giro. Buonasera da Enrico Pagliarini, speciale Giro d'Italia. Oggi prima tappa sulle Alpi, partenza da Cherasco vicino ad Alba in Piemonte fino ai 2000 metri di Cervinia dopo 206 chilometri. La tappa va al costaricano Andrei Amador della Movistar, mentre la maglia rosa passa dallo spagnolo Rodriguez al canadese Esiedal. Pier Augusto Stagi. Un corridore dello stato di Costa Rica vince sotto il Cervino. La 14ª tappa da Cherasco a Cervinia è terreno di conquista dell'unico corridore costaricano. Il suo nome è Andrei Amador, uno che della fuga ha fatto una ragione di vita. È al suo secondo Giro d'Italia. A fine del 2010 ha affrontato avversari fin troppo agguerriti, dei banditi che hanno cercato di rapirlo, e nella sua fuga ha lasciato appunto ai banditi la sua preziosa bicicletta Made in Italy, che poi è diventata per i banditi appunto motivo di riscatto. Il corridore in realtà poi non ha voluto rispondere al riscatto e la bicicletta è ricomparsa. Oggi il riscatto totale però per questo ragazzo della Costa Rica, che ha vinto la tappa, una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia. Ha vinto allo sprint battendo Bart, terzo De Marche a 2 secondi, poi Esedal a 20 secondi, Tiralongo a 46, che ha regalato il gruppetto dei migliori con Pozzovivo e Basso. Adesso in maglia rosa è ritornato il canadese della Garmin Rider Esedal, che precede di 9 secondi il catalano Joaquim Rodriguez, terzo il nostro Paolo Tiralongo, staccato di 41 secondi, poi troviamo quarto Sandy Casare, Ivan Basso risale in quinta posizione a 1.06, Kreuziger è sesta a 1.07, Scarponi nono a 1.19, Domenico Pozzovivo decimo a 1.21. I corridori nel frattempo si sono trasferiti a Busto Arsizio tra Milano e Varese, da dove domani il Giro d'Italia ripartirà. Domani 15ª tappa da appunto Busto Arsizio fino ai piani dei Resinelli, 1280 metri sopra Lecco dopo 169 chilometri. Da Enrico Pagliarini e dalla redazione di GR24 l'augurio di una buona serata. Voci dal Giro.